I restauri della vecchia chiesa di Ars. Nuovi progetti. L'amor di Dio e delle anime, coadiuvato dal temperamento che gli rendeva l'ozio una prova insopportabile, spingeva Don Vianney a tentare nuove opere. Nonostante egli fosse ancora giovane di età, era già rovinato nelle sue forze fisiche dalle sovrumane penitenze. Lo tormentava anche una febbre intermittente dovuta forse al clima insalubre della Dombe. Tuttavia, egli non si concesse mai un'ora di riposo. Il suo ministero parrocchiale non gli assorbiva tutte le forze ed egli pensò di soddisfare diversamente il suo bisogno di attività e il suo zelo. Lasciato il giardino incolto, dopo di averne fatti tagliare tutti gli alberi, perché i ladri, scavalcando la siepe, ne rubavano la frutta con offesa al Signore, e senza più alcun pensiero per la sua casa nella quale si ritirava appena durante la notte per un breve sonno, i mobili a poco erano stati ceduti in carità ai poveri, il giovane curato usò del tempo che non occupava nella preghiera e nello studio per trasformare la sua povera chiesa. Abbiamo già visto come avesse rinnovato l'altar maggiore e pitturato il rivestimento del coro, ma aveva altri progetti. Un avvenimento inaspettato mise in pericolo l'esecuzione delle sue iniziative. Ai primi di aprile del 1820, Don Vianney riceveva dall'arcivescovo di Lione, dal quale allora dipendeva, una lettera che gli significava la sua nomina alla parrocchia di Sal, nel Beaujolais, nel decanato di Villefranche-sur-Saône. Lasciava la regione dell'Ain per quella del Rhône. L'arcivescovo aveva ricevuto referenze, non si sa da chi, sulla salute malferma del giovane prete e gli aveva scelto il magnifico villaggio di Sal, situato sul fianco di verdi colline che assicuravano un'atmosfera più dolce. La popolazione, di poco più di 300 anime, era d'animo benevolo e nota per il suo spirito cristiano. Don Vianney amava la sua modesta parrocchia di Ars, tuttavia, docile all'ordine del superiore, si trattenne dal presentare alcuna osservazione contro il provvedimento e si preparò per la partenza. Fece mettere i suoi mobili ed i suoi libri su una vettura e si dispose a partire. Alla notizia, grande fu l'emozione nella parte credente e praticante di Ars. Le madri, soprattutto, ne avevano avuto il presentimento. Che fortuna, dicevano, se i nostri figlioli facessero la loro prima comunione sotto la direzione di questo prete. È un santo, ma non ce lo lasceranno. La contessina di Ars, che naturalmente l'autorità ecclesiastica non era obbligata ad interpellare, non celò la sua viva emozione e in una lettera intima in cui dava libero sfogo al suo dolore, parlava niente meno che di strangolare il vicario generale. Certo, si trattava di una frase scherzosa per significare il suo dispiacere. Immediatamente, dato nell'avviso allo stesso Don Vianney, che si lasciò impressionare dal profondo dispiacere di molti, partiva da Ars per Lione una deputazione con a capo il sindaco. Ars ridomandava il suo parroco. «Quand'è così», disse Monsignor Corbon, «egli potrà rimanere finché vuole». E consegnò alla delegazione meravigliata un plico ufficiale che annullava la destinazione alla parrocchia di Sal. Don Vianney rimaneva quindi al suo posto. Del resto sembra che Dio medesimo abbia manifestato chiaramente la sua volontà. Nel giorno destinato alla partenza, il parroco nominato di Sal si era recato col suo corredo sulla riva della Saône che doveva attraversare. Ma il fiume era in piena e spirava un vento così impetuoso che il barcaiolo quel giorno non poté traghettare i viaggiatori. Non esisteva ancora il magnifico ponte di Gassans. Dopo due tentativi riusciti vani, la mobilia e la biblioteca dovettero nuovamente far ritorno alla canonica di Ars. La cappellania d'Ars diviene parrocchia. La condizione di semplice cappellano lasciava credere giustamente che Don Vianney non si sarebbe fermato molto in quell'angolo della parrocchia di Miserie. Appena due anni dopo il suo arrivo in paese, quando si cominciava ad apprezzarlo, già si parlava della sua partenza. In più, in quel mese di trepida ansia, aprile 1820, I buoni cristiani del villaggio si chiedevano con incertezza se l'arcivescovo di Lione gli avrebbe dato un successore. I conti del castello d'Ars già da molto tempo si interessavano per ottenere a questo piccolo centro religioso la sua indipendenza e il titolo di parrocchia. Fin dal 1806, per atto stipulato con Francesco Sinier, divenuto al tempo della rivoluzione proprietario della canonica, del giardino e dell'orto, di cui sino allora avevano goduto i parrici di Ars, la contessa di Garez aveva affittato tutto con la speranza di restituirlo un giorno alla sua primitiva destinazione. Una lettera scritta dal visconte a sua madre in data 18 marzo 1808 ci fa sapere che meno di 2 anni dopo la contessa comperò la canonica con le sue dipendenze e questo era, secondo lei, un mezzo per conservare ad Ars la succursale. Il giorno 19 giugno 1821, già trovandosi ad Ars Don Vianney, il visconte d'Ars, che per la morte di sua madre era diventato proprietario di quei beni sacri, ne fece dono alla chiesa. Grazie a questa donazione diventava possibile l'erezione della cappellania in parrocchia. Da parte loro gli abitanti di Ars, in una supplica al re Luigi XVIII, facevano le loro legittime rimostranze ricordando la lontananza eccessiva di Miserier, loro centro parrocchiale, l'impossibilità per i fanciulli di seguire l'istruzione catechistica durante l'inverno per la piena dei fiumi ed il cattivo stato delle strade, il timore di veder scomparire anche la cappellania per la mancanza di sacerdote, qualora questa non fosse stata trasformata in parrocchia indipendente, ed aggiungevano queste parole: gli abitanti, per la loro fede, i loro costumi, il loro zelo per la religione, hanno voluto un prete a loro spese. Questo prete, uomo di alte virtù, fa nel paese e nei dintorni un bene immenso. Disgraziatamente questo beneficio può essere distrutto in un istante se venisse ritirato il pastore. Il visconte, allora a Parigi, appoggiò la supplica dei suoi concittadini e quantunque il villaggio non avesse le 500 anime volute dal decreto 25 agosto 1819 per l'erezione di nuove succursali, Ars fu dichiarata parrocchia, per decreto del re in data 20 giugno 1821. In questo modo Miserier non è ancora in grado di rendersi conto della perdita che faceva, veniva privato della sua gemma migliore. Monsignor Courbon, vicario generale, che aveva annullato la nomina di Don Vianney a Sal, non aveva potuto prevedere che la parrocchia di Ars, ove egli lo lasciava volentieri, sarebbe stata presto staccata dall'arcidiocesi di Lione. Costruzione del campanile e di nuovi altari. Tutti questi avvenimenti, privi di importanza nella storia del mondo, ma non indifferenti per l'oscuro villaggio di Ars, si svolsero mentre Don Vianney pensava a restaurare la sua chiesa. Nel 1820 si imponeva la costruzione di un campanile, per quanto modesto dovesse essere. Quello di legno, scosso da una campana troppo pesante, minacciava rovina, e quantunque non si suonasse più a distesa, gli abitanti di Ars vivevano con la trepidazione che dovesse sfasciarsi e cadere fra le tombe del cimitero. Nel mese di agosto il sindaco, dietro le istanze del curato, fece incominciare i lavori ed il santo con soddisfazione vide elevarsi nel cielo di Ars un magnifico e solido campanile di mattoni, quadrato e massiccio, con finestre incorniciate da graziose colonnette romaniche. Appena finito il campanile, il curato vi fece porre una seconda campana acquistata da lui personalmente e che fu chiamata Campana del Santo Rosario. Mentre le nuove impalcature si erigevano all'esterno della chiesa, si pensava anche a migliorarne l'interno, che Don Vianney trovava troppo stretto. Tuttavia non aveva ancora pensato di demolirla. Si prega così bene nelle vecchie chiese. Del resto, la ricostruzione avrebbe comportato spese troppo gravose. Vicino alla balaustra, che a quest'epoca includeva la porta della sacrestia e la parte della chiesa situata sotto il campanile, la Santa Vergine aveva la sua statua e il suo altare, ma erano in legno cariato, e questo misero monumento, addossato al muro con i suoi 4 candelabri scrostati, faceva pietà. Volendo onorare Maria secondo i desideri del suo cuore, il curato d'Ars decise di aprire una prima cappella laterale e di dedicarla a lei. Senz'altro diede principio ai lavori che, incominciati nel gennaio 1820 e continuati con alacrità, poterono essere finiti per il 6 agosto, festa patronale. La nuova cappella, col suo soffitto piano, la sua decorazione, le sue dorature, la sua statua policroma, opera di un gessaio e di un pittore di Villefranche, era secondo il gusto artistico di quell'epoca. Il curato Don Vianney avrà sempre una particolare predilezione per quest'angolo della sua chiesa, calmo e quasi nascosto, e per 40 anni vi celebrerà la Santa Messa ogni sabato. Nel 1822 il soffitto della navata, che pure minacciava di rovinare, fu rifatto e pagato dal comune con tasse straordinarie. Costò 459 franchi. Nel 1823, per onorare in modo visibile il grande santo, che si era scelto come patrono della cresima, fece costruire a sole sue spese una seconda cappella, che dedicò a San Giovanni Battista. Fu benedetta e inaugurata per la festa del titolare, il 24 giugno, da Don Mattia Lorà, già condiscepolo del nostro santo ad Écouilly, e da allora superiore del piccolo seminario di Messimier. Per la maggioranza dei parrocchiani, divenuta ormai praticante, fu una festa devota e gioiosa. In mezzo a questa festa, i frequentatori dei divertimenti mondani venuti alla riunione poterono leggere non senza dispetto l'iscrizione loro diretta, che il loro curato aveva voluto porre al di sopra dell'arco della nuova cappella. La sua testa fu il prezzo di una danza. Più tardi si divulgò la notizia che il santo, in occasione di questa benedizione, era stato favorito di una visione profetica. «Io non so», scrive Caterina Lassagne, «se in quel giorno Dio gli fece conoscere quello che si sarebbe avverato più tardi, cioè la conversione di tante anime. Ma ricordo che un giorno predicando ci disse: «Miei fratelli, se voi conosceste gli avvenimenti che si sono svolti in questa cappella, non osereste più entrarvi, non vi dico di più». E ripeté varie volte queste parole, come se ne avesse la mente presa. Si pensò allora che gli fosse apparso il precustore, indicandogli, fin da quel momento, il celebre confessionale situato in questa cappella con la moltitudine di penitenti ivi inginocchiati. Ma l'erezione dell'altare di San Giovanni Battista, se gli procurò delle gioie, non gli lasciò mancare i fastidi. Il falegname domandava insistentemente 500 franchi al santo, che si era accollato personalmente le spese per la costruzione, ed egli non aveva più un centesimo, perché quanto faceva parte della sua congrua di vicario, unito alla pensione a lui assicurata dal fratello Francesco sulla sua parte di eredità, era già stato versato al capomastro. Il povero curato, in questo imbarazzo, uscì di casa quasi a calmare la sua inquietudine. A poca distanza dalla chiesa si incontrò in una donna sconosciuta che gli chiese: «Siete voi il curato d'Ars?» E alla risposta affermativa gli consegnò 600 franchi per le sue opere. Tale intervento gli parve straordinario, ma egli si guardò bene dal concludere che da allora in poi la provvidenza sarebbe diventata il suo banchiere. Prudente per temperamento e per virtù, dichiarò che quella lezione gli bastava e che non si sarebbe messo più in simili imbrogli. Esclusi i casi eccezionali, prese l'abitudine di pagare anticipatamente. Molto più tardi le mura dell'umile chiesetta si allargheranno ancora col sorgere di altre tre cappelle. Nel 1837 quella dedicata a Santa Filomena e in data ignota quella del Lecce Homo e quella chiamata dei Santi Angeli. Nel 1845 il piccolo coro, così angusto che l'altare maggiore lo occupava completamente, sarà ingrandito fino a prendere quasi le proporzioni della navata intera. Vi si aprirà poi una seconda sagrestia e il santo installerà dietro l'altare il suo terzo confessionale, destinato specialmente alle confessioni dei sacerdoti. Avendo constatato l'impressione prodotta dalle immagini sulle anime pie ed assecondando la sua stessa pietà, moltiplicò nella sua chiesa i quadri e le statue. Nel santuario erano rappresentati San Giuseppe e San Pietro, San Sisto, patrono della parrocchia, e San Biagio, che stavano all'entrata del coro. C'erano due statue coricate, un Cristo morto e una Santa Filomena, che si corrispondevano ognuno nella propria cappella. In nicchie o appesi ai muri stavano i quadri di Nostra Signora della Medaglia Miracolosa, della Vergine col Bambino, di San Giovanni Battista, di San Lorenzo, di San Francesco d'Assisi, di Santa Caterina da Siena, di San Benedetto Labr, dell'Arcangelo Raffaele e del giovane Tobia, dell'Arcangelo San Michele, dell'Arcangelo Gabriele e dell'Annunciazione. Nella cappella del Lecce Homo, attorno a un grande Cristo coronato di spine, si ammiravano il Santo Volto e gli strumenti della Passione. Insomma, in quella piccola chiesa tutto era eloquente allo sguardo di un'anima cristiana. Qualche volta, spiegava egli, ci basta la vista di un'immagine per commuoverci e convertirci. Spesso le immagini colpiscono come le cose che rappresentano. Le grandi statue lo rapivano, dice la contessa di Garez. Ah, se avessimo la fede, esclamava egli piangendo davanti a un Ecce Homo. La munificenza del Visconte d'Ars. Nell'opera di restauro e di abbellimento della sua chiesa, Don Vianney fu validamente coadiuvato da un uomo che si meritò dal villaggio di Ars perenne riconoscenza, il Visconte Francesco, fratello della contessa Marianna Garnier, della famiglia dei Garez. Il Visconte, che abitava a Parigi, seppe dalla sorella che ad Ars era stato destinato un vicario di Eguigny di nome Vianney. Quando egli venne ad Ars per alcuni giorni di riposo, nella primavera del 1819, vide per la prima volta questo prete di 33 anni appena, sfinito dalle veglie, dai digiuni e dalle fatiche dell'apostolato. E fin dal primo incontro si sentì conquistato ed ebbe sempre in lui una fiducia illimitata. Non scriveva mai a sua sorella senza parlarle del suo zelante e venerato curato. La contessa Marianna regolarmente informava il fratello dei lavori di Don Vianney e gli significava che si era incominciato bene, ma che per mancanza di mezzi si sarebbe dovuto ben presto arrestarsi. E quale dolore per il santo prete! La Pia Castellana sostenne così bene la causa della sua piccola parrocchia che il Visconte decise di continuare l'opera del giovane curato. «Mai», rispondeva egli nel suo stile solenne, «il santuario del villaggio sarà così ricco e splendido come io lo desidero». Subito diede ordine ai più abili artigiani di Parigi del 5 maggio 1823, era in grado di annunciare un primo invio. Tre stendardi ricamati in argento, uno del Santissimo Sacramento, uno della Santa Vergine e uno del nostro patrono San Sisto. «Quello che avete avuto la bontà di fare per la chiesa di Ars», diceva all'indirizzo del santo curato, «mi suggerisce quello che faccio per essa. I vostri parrocchiani mi hanno scritto che le vostre sagge istruzioni e il vostro esempio li edificano e li trascinano a Dio». In seguito mandò paramenti di seta e drappi ricamati in oro per la Santa Messa ed anche un paramento di velluto nero con fiocchi rossi per le funzioni del Venerdì Santo. Per il maggio 1823 promise un baldacchino incaricando il curato di sceglierne il tessuto. Siccome le migliori stoffe si fabbricano a Lione ed anche perché sia seguito il vostro gusto, per questa compera incarico voi, mio buon amico e veneratissimo curato. Il baldacchino giunse, ma essendo troppo grande in confronto della piccola porta stretta, non poté uscire di chiesa prima del 1826, quando il Visconte ingrandì di 8 piedi l'umile chiesetta, dandole una nuova facciata, sulla quale più tardi si collocò una statua di Maria Immacolata. Non v'è dubbio che chi più godette per tutti questi doni del generoso Visconte fu il curato medesimo. Era cosa piacevole vederlo ed udirlo quando si aprivano le pesanti casse portate da Lione da giovani volenterosi. Rideva e piangeva come un bambino. Ad una buona donna che passava disse: «Madre, venite, venite a vedere una bella cosa prima di morire». «Ah», diceva, «in paradiso tutto sarà ancora più bello». Quantunque le offerte del generoso Visconte avessero permesso di allargare l'entrata della chiesa, l'accesso rimaneva tuttavia infelice, non essendoci altro che una scala in cattivo stato. Il gentiluomo prese l'iniziativa di sostituirla con una gradinata, una bella ringhiera, realizzando un disegno un po' straordinario. «Desidero che l'entrata alla chiesa sia splendida», scriveva al sindaco Mandì. «Ciò è necessario assolutamente, perché se i palazzi dei re della terra sono ornati di magnifici accessi, A più forte ragione devono essere sontuosi quelli delle chiese. Non voglio economie per quest'opera. Nel 1828, grazie alla cooperazione degli abitanti che provvidero a portare il materiale sul luogo di lavoro, si poterono costruire le due scale con la ringhiera attuale. Mentre si eseguivano questi lavori, il visconte Darcy non era rimasto inattivo. Già il 15 maggio 1827 aveva scritto al sindaco pregandolo di annunciare al curato e ai fabbricieri che avrebbe inviato per la chiesa 1. Un ostensorio d'argento dorato, 2. Un tronetto di velluto con la cupola, le colonnette, i pennacchi, la base in rame dorato, 3. Un tabernacolo in rame dorato proporzionato all'altare, eccetera. Più tardi Don Vianney ricevette dal suo caro benefattore anche grandi reliquari che servirono di ornamento per le cappelle di San Giovanni Battista e della Santa Vergine. In tutte queste opere il visconte ebbe come prima ricompensa l'approvazione della sua tenera sorella, come egli stesso la chiamava più volte nelle sue lettere, e la letizia che ne derivava al santo curato Darcy. «Mi parli», le scriveva, «del nostro veneratissimo curato. Vedo che sei molto contenta di quello che ho fatto e farò per Ars, se Dio mi darà vita. Ma vedo anche che preferisci lasciarmi fare da solo, perché tu ti senti più portata per altre buone opere. Ti chiedo per favore di scrivermi francamente ciò che il signor curato pensa di tutto quanto ho mandato. Se egli è contento, la mia gioia è completa». Così la vecchia chiesa d'Ars, 10 anni dopo l'arrivo del suo curato, era già almeno in parte, sia all'esterno che all'interno, quella che è oggi. L'umile Don Vianney aveva già fatto molto. Ora può avere inizio il celebre pellegrinaggio di Ars, quella sfilata ininterrotta di pellegrini di tutte le nazioni, giusti e peccatori, che verranno a domandare ad un sacerdote che essi già chiamano santo, prima ancora del decreto infallibile di Roma, la salute, la luce, la conversione del cuore.